Sì, no, allora, io ho un grande problema che ho sbagliato gli esercizi. Però se le persone, io glielo chiedo quali esercizi darmi e loro non mi dicono quali sono, oppure dicono, boh, fai quelli che trovi. Giusto. Io preferisco fare questi qui che sono già scritti e so cosa devo fare, piuttosto che fare esercizi insulsi sul libro. Poi non riesco a capire, cioè. Neanche loro lo sanno. Cosa fare? Stavo pensando di fare prima questi qui dei fogli, ormai li ho cominciati e li finisco anche. Basta. Giusto? E poi faccio un po' di quelli del libro. Così ho fatto un po' di tutte e due. E quella non mi può dire niente. Boh, fai quelli che trovi? Io a quella do di lei, però. Però dico, mi sono fatta il fondo così per questi cacchi di Abba e Spletta, che sono anche tanti. Io ho detto, ma già questi. Quello che ho capito, pensavo che quelli del libro fossero un optional, questi invece fossero quelli obbligatori. Raccoglie neanche probabilmente. Solo che, cioè, Letizia non risponde. E io l'ho scritto 3 ore fa, perché non risponde? Sì, ma nonno, ha letto il messaggio. Ma nonno, l'ha letto! Vuol dire, cioè. Ma vuol dire che nessuno sa quali sono gli esercizi da fare! Infatti, io faccio questi. Do la priorità perché li ho finiti, cioè non li ho quasi finiti, mi mancano ancora un po'. Mi sono fatta il fondo e mo li finisco. E se ho tempo faccio quelli del libro. Vabbè, ciao. Ma cazzo, Letizia, che cuore.